Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, insomma, è allegro il day after di Italia-Inghilterra per tutta una buona serie di ragioni. Innanzitutto perché l'Italia è in semifinale, poi perché ha giocato obiettivamente una signora partita, perché si aprono prospettive diverse, anche se poi magari passata l'euforia un po' di realismo aiuterà a valutare meglio le prospettive di Italia-Germania. Una notizia è che arbitrerà il francese Lanois, e vabbè, e fin qui niente di straordinario. Sembrava l'inglese Webb destinato a Italia-Germania, invece Collina, perché è Collina il designatore di questi europei, ha scelto il francese Lanois. L'altra già ci proietta sul futuro immediato. Perché? Perché stamane Roberto Mancini in una lunga intervista, tra l'altro, a Chiambretti, dice: prima fa un po' di analisi. Capello ha fatto un ottimo lavoro con la sua nazionale, se c'era lui in panchina l'Italia avrebbe fatto più fatica. È la solita storia degli inglesi che giocano interrottamente per 10 mesi e poi arrivano a queste competizioni completamente cotti. Ma la cosa interessante è quando gli hanno chiesto quale sarà la finale secondo lui, lui ha risposto che la finale sarà Italia-Portogallo. E allora credo che si potrebbe partire proprio da questa suggestione, perché è un'annata così, cioè se alla vigilia delle semifinali, alla vigilia delle semifinali di Coppa Campioni, beh, insomma, la finale scritta era Barcellona-Real Madrid e invece è stata Chelsea-Bayern. Adesso la finale scritta, secondo tutti, è Germania-Spagna, e invece potrebbe essere, come dice Roberto Mancini, Italia-Portogallo. I vostri interventi di oggi li immagino numerosi e più o meno entusiasti, anche se poi una lettura critica di questa partita è inevitabile, perché io credo che con due attaccanti, non dico due fenomeni, non dico Rive Boninsegna, non dico Bettega e Rossi, non dico Graziani e Pulici, non dico, non so, Vialli, Baggio, insomma, scegliete voi, ma due attaccanti in buona forma, in buona condizione, certamente l'Italia si sarebbe risparmiata questa super fatica, che è inutile negarcelo, giovedì sera peserà. La Germania ha già 2 giorni in più di vantaggio di riposo e mezz'ora di supplementari, di stress e tutto il resto, insomma, peseranno, a parte un paio di infortuni di cui poi parleremo. Ieri sera per la prima volta è successo che in un europeo è successo che uno spareggio ai rigori si è risolto a favore della prima squadra che sbaglia. Pensate che questa è una regola, invece qui è Franco Piantanida, come sempre con le sue statistiche, è implacabile. In genere nelle altre manifestazioni mondiali, ma anche le coppe europee, 8-9 volte su 10 capita che il primo che sbaglia vince. Io sono rimasto a quella, modestamente, perché non mi intendo di statistiche. Ieri sera, quando ho visto uscire il pallone di Montolivo, avevo ancora 5-6 righe da scrivere, le prime del commento, quelle che poi vanno in testa, e sono partito dicendo: l'Italia per fortuna ce l'ha fatta, eccetera eccetera, ma non per esorcismo, perché ero convinto che quella cabala funzionasse su tutte le manifestazioni. Agli europei invece no, è stata la prima volta in 13 partite finite ai rigori ai campionati europei che la squadra che ha sbagliato il primo rigore poi ha vinto. Dopodiché si è confermata la tradizione infame per gli inglesi, che per la 6ª volta consecutiva dal 90 a oggi tra europei e mondiali sono usciti ai calcio di rigore. Stavolta gli inglesi sono stati traditi da quelli che di nome fanno Ashley, perché hanno sbagliato Young e Cole. E poi, se andiamo avanti con le curiosità, ce ne sono altre, perché Buffon ieri sera ha parato un rigore, peraltro non difficile, però bisognava battezzare non l'angolo, perché era centrale, bisognava battezzare da che parte questo avrebbe calciato. Però Buffon non è un pararigori, perché è il quarto rigore che para in 118 partite di nazionale. Ne ha pagato uno a Cuba nell'amichevole con la Polonia di novembre, Cuba col K è il giocatore, e ne ha parato uno a Mutu all'Euro 2008 e il primo in Italia-Corea del Mondiale 2002. Quindi in realtà è discretamente una rarità, ma insomma l'importante è che abbia funzionato ieri. È il terzo cucchiaio della storia, quello di ieri sera di Pirlo, dopo Panenka, che lo inventò, lo brevettò nel 76 nella finale Cecoslovacchia-Germania Ovest allora, e poi quello del 2000 di Totti. Certo, certo, anche ieri sera quello di Pirlo, è quel colpo di lucida follia che solo i campioni possono avere, e io sono abbastanza certo che abbia un po' cambiato il corso del destino di questa partita, perché ho la sensazione che gli inglesi dopo il 2-1, eravamo sul 2-1 per loro quando Pirlo è andato dal dischetto, e la sensazione era che gli inglesi avessero, come dire, preso la marcia giusta e ci volesse qualcosa di strano per esorcizzare il finale scritto. Beh, l'esorcismo è arrivato con questo colpetto di Pirlo che secondo me ha finito di destabilizzarli. Sentirò poi, sentiremo insieme i vostri commenti all'800 24 00 24. E a proposito dei rigori, come ha vissuto Montolivo dopo una signora partita il momento di quell'errore? Sentiamo. Sì, sospiro di sollievo, in quel momento ti crolla il mondo addosso, però la cosa importante è che abbiamo passato il turno, quindi poco male. Sì, io penso che abbiamo fatto una grande partita, loro si sono difesi bene, quindi era difficile creare palle gol, però sarebbe stato un peccato uscire ai calci di rigore. Peccato, un peccato, altro che un peccato, sarebbe stato un delitto per come è stata la partita. L'equipe dice: l'Italia ha davvero meritato questo ingresso in semifinale, gli italiani, e poi però dice gli italiani pericolosi ma maldestri sotto la rete avversaria, non c'è dubbio. Ma il complimento migliore arriva dagli spagnoli, che sono sempre stati molto critici nei confronti del nostro calcio, e invece oggi per esempio Asa ha titolato bella l'Italia, Prandelli è riuscito a mettere da parte i pregiudizi sul gioco della nazionale italiana, e quel calcio difensivo e abituato a vincere all'ultimo minuto per grazia ricevuta non ha lasciato tracce. Oggi l'Italia gioca un altro calcio. Marca ricorda che questa Italia ha imparato a tener palla, e poiché potrebbe vedersela in finale proprio con la Spagna, sarà un avversario da prendere con le molle. Fabregas ha usato Twitter per complimentarsi con Andrea Pirlo, non solo per il rigore, ma perché ha scritto Fabregas, è di nuovo il giornale, di nuovo il quotidiano, avrebbero voluto dargli 4 premi, scrive Marca, uno per ogni tempo, per essere stato il migliore in campo in ogni tempo giocato. Secondo me sottovalutando un po' De Rossi, ma insomma ci sta bene tutto. Con un Pirlo così, conclude El País, Balotelli può anche continuare a mangiarsi i suoi gol. E certo, ieri sera ha fatto una discreta indigestione. Carlo Caranti scrive: gioiamo per questa semifinale, ma non è d'accordo che sia stata questa l'Inghilterra più rinunciataria e passiva mai vista a memoria d'uomo. Senza dubbio sì. Un'altra domanda in un ascoltatore in attesa di quella che farete in onda. Si continua a dire che De Rossi è squalificato per doppia ammonizione, scrive Walter Crotone, ma non venivano annullate. Intanto non è De Rossi ma è Maggio che è stato colpito a doppia ammonizione, ma valevano fino a ieri, adesso sono azzerate, per cui Maggio salterà purtroppo la semifinale con la Germania, ma gli eventuali cartellini che colpiranno i giocatori già ammoniti nella semifinale non varranno in finale, nel senso che da ieri sera in avanti le ammonizioni sono azzerate. Poi sarà divertente cercare qualche precedente storico in cui l'Italia si è riuscita a non vincere una partita così stradominata. Io ne ho trovata una soltanto, e magari mi aiutate a cercarne e a trovarne altre. Per la SNAI continua a essere favorita la Germania, ma le quote sono molto avvicinate, nel senso che la vittoria tedesca è data 1,50, quella italiana a 2,55. Mentre per il titolo Spagna e Germania sono a questo punto a 2,80, l'Italia a 4,50 e il Portogallo è a 6,50. Duilio, Milano, buongiorno. Buongiorno, io stavo guardando questi campionati, vedere questo Balotelli osannato, sempre risparmiato, eccetera, però io non l'avrei portato, perché un carattere del genere, tenerlo chiuso per un mese nei ritiri così, lui è andato insieme nel cervello, cioè averlo impappinarsi davanti ai portieri vuol dire che il ragazzo era attrattito, non è felice. Perché un giocatore deve essere felice e libero, invece lui mi sembra un gatto chiuso in gabbia. Non so se lei è d'accordo con me, cioè è troppo lungo il periodo che lui sta chiuso come un frate in mezzo a un ritiro. Ma potrebbe anche essere una spiegazione questa, e invece potrebbe essere banalmente che forse il ruolo di prima punta non è il suo. Potrebbe essere questa una spiegazione. Io le dirò che ieri sera Balotelli si è mangiato, beh, insomma, ha avuto quattro occasioni nette, pulite, diciamo che almeno una, ma possibilmente due, erano da sfruttare diversamente, cioè dovevano entrare, però devo dirle anche che il Balotelli di ieri sera, i suoi 120 minuti purtroppo sterili, senza segnare, questa è certamente una colpa, li ha giocati. Quelli che non ho visto giocare sono stati i quasi 80 minuti di Cassano, che mi è sembrata davvero la scelta molto discutibile di ieri, ed è una scelta purtroppo che si riverbera sul futuro, perché se adesso l'Italia avesse mezz'ora in meno nelle gambe e magari avesse potuto con calma amministrare un risultato positivo che doveva arrivare abbastanza presto per come è andata la partita, adesso sarebbe più facile, indubbiamente. Tocca a Fabio, ancora a Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. In parte mi ha anticipato l'ascoltatore di prima. Grande partita dell'Italia ieri sera. Premetto che quello che sto per dire adesso lo penso già da un po'. Però io, il nostro reparto più debole è sicuramente l'attacco. E in particolare io non mi ricordo di un giocatore che goda di così tanto credito in rapporto a quello che fa come Mario Balotelli. È fisicato, ha ovviamente dei buoni colpi, però a me sinceramente, probabilmente non capisco un fico secco di calcio, non mi sembra questo fenomeno di cui troppe volte, secondo me, molti addetti ai lavori parlano, nel senso che ogni pallone che tocca, anche magari se fa dei buoni colpi, sembra che abbia fatto una cosa eccezionale, a volte fa anche dei colpi che anche altri giocatori hanno fatto. Insomma, mi sembra che goda di un credito spropositato in rapporto a quello che fino adesso ha fatto vedere nella sua carriera. Sto parlando di giocatore, lasciando fuori il discorso caratteriale, anche perché non si conosce esattamente. Certo, certo. Sto parlando solamente di giocatore. Sta facendo un discorso di potenzialità e poi di traduzione in pratica. Sta facendo un discorso logico, direi fondato. Alessandro da Reggio, mi pare, e anche Luigi hanno indovinato a che partita pensavo io, cioè a Italia-Germania del 78, ai mondiali in Argentina, una sera in cui parliamo sempre di sfide di mondiali europei, quindi ad alto livello. Quella sera l'Italia e Berzot letteralmente demolì i tedeschi. Il problema è che demolì i pali della porta tedesca, perché credo che solo Bettega ne colpì tre quella sera. Ma insomma, pescando nella memoria, che ormai è molto lontana, ricordo tre o quattro pali probabilmente, ma al di là di quello un'infinità di occasioni salvate dai tedeschi in maniera abbastanza incredibile. Fu 1-0-0 che poi purtroppo costrinse l'Italia a vincere la partita con l'Olanda nel girone, visto che era un gironcino di semifinale. L'Italia andò in vantaggio con l'Olanda, ma poi fu rimontata e insomma morale in finale ci andarono con gli argentini, andarono gli olandesi. Però al di là dello sviluppo poi del mondiale, quella sera l'Italia dominò anche più di ieri una grande nazionale avversaria, chiudendo la partita sullo 0-0 come è successo ieri sera, con questa differenza che quella Germania non era un granché, ma l'Inghilterra di ieri sera era proprio una povera cosa. 17 milioni di telespettatori ieri sera, 17 e mezzo, è uno share del 66, ma che diventa del 75% aggiungendo Rai Sport 1, Rai HD eccetera. Picco d'ascolti di quasi 22 milioni e share dello bulgaro dell'85% al tiro al dischetto di Diamanti, cioè a quello decisivo. Enrico Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Volevo chiedere un'opinione. È vero che chi vince ha sempre ragione, ma stamattina leggevo sulla Gazzetta un notto a Cesare Prandelli e secondo me è un po' eccessivo, perché ieri abbiamo sì dominato, ma abbiamo appunto dovuto soffrire e rischiare fino ai calci di rigore, e secondo me uno dei motivi forse sono stati anche i cambi poco coraggiosi del CT della Nazionale, perché lasciare in campo un Cassano veramente un po' impresentabile per 80 minuti e poi soprattutto fare due cambi, perché forse c'erano anche dei problemi fisici, ma un po' difensivi, senza usare, senza magari provare Giovinco e Di Natale, che avrebbero potuto dare una mano nei supplementari. Mi è sembrata una scelta un po' rinunciataria e non molto condivisibile. Credo Enrico che Prandelli sia stato proprio condizionato da questi problemi, perché De Rossi si è arreso ad un certo punto dopo aver provato a resistere. Abate qualche segnale alla panchina l'aveva già mandato, e quindi evidentemente lui ha aspettato a cambiare perché temeva questi due, come poi in effetti è accaduto, di doverli perdere, quindi dover fare sostituzioni, come dire, fisiche anziché tecniche. E, certo, io ho la convinzione che quella di ieri sera, perlomeno nel secondo tempo o in una buona parte del secondo tempo, sarebbe stata la partita di Giovinco, ma ciascuno ha la sua impressione, la sua sensazione. Io credo che con quella difesa, che per carità molto molto forte fisicamente in centro, però come abbiamo visto quante occasioni, quanti spazi ha lasciato e quanto tardava a chiudere quando i nostri arrivavano verso il limite dell'area, e infatti di tiri soprattutto nel primo tempo da fuori centrati, ma ce ne sono stati, a parte quel capolavoro di De Rossi. Credo che sarebbe stata davvero la partita sua, ma ovviamente come sempre in questi casi la controprova non c'è. Gabriele Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Ascolti, niente, proprio chiamato da buon tifoso rosso-blu, voglio sperare, ma soprattutto credo che Diamanti sia l'uomo del destino di questo torneo. Lo dico perché lo conosco, visto che lo seguo tutto l'anno. A proposito di Diamanti, mi volevo riallacciare a un discorso che non mi era piaciuto tanto nelle settimane scorse riguardo alle critiche feroci verso i colleghi della Rai, ma non tanto perché non lo meritassero, ma quanto perché non mi sembrava molto bello criticare dei colleghi in generale, parlo di tutti, non solo di lei, però mi devo proprio ravvedere, perché cioè, è due volte che gioca Diamanti e due volte che dicono tutte le squadre dove ha militato tranne quella attuale, che è il Bologna. Quando ieri Zazzaroni si è permesso di dire guardate che gioca nel Bologna, non è un ex West Ham e basta, hanno chiuso la trasmissione. Vabbè, adesso molto, Gabriele, molto Gabriele, ma lei sta facendo un discorso da bolognese che va benissimo, ma insomma come se Bologna fosse un piccolo paesino sperduto chissà dove, cancellato dalle carte geografiche, bistrattato dal mondo e in particolare dalla RAI. Ma insomma, io credo che un po' meno di provincialismo potrebbe non guastare, no? Quando c'è di mezzo l'Italia, ma in assoluto. Io le dirò che invece ieri sera ho rivalutato Beppe D'Ossena, che secondo me ha fatto poi, certo, con qualche eccesso linguistico, con qualche sì, insomma, con qualcosa che si può sempre discutere, ma credo che abbia invece, come dire, fatto una buona, a tratti ottima prestazione da seconda voce e da commentatore, anche perché non è facilissimo fare la seconda voce quando con questa prima voce. Gabriele, grazie. Matteo, Trieste, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Complimenti per la mostra di Trieste intanto. Di questo la ringrazio, sì. Io volevo dirle che provo molta ammirazione e stima per Prandelli, lo trovo addirittura forse troppo corretto, perché mi sembra che in alcune occasioni in queste partite abbia voluto essere quasi troppo riconoscente con alcuni giocatori che hanno fatto il percorso delle qualificazioni. Tipo? Però abbiamo avuto fortuna, spero che magari in semifinale sia un po' magari meno irriconoscente, ma che Thiago Motta o Cassano magari ripartono dal secondo tempo, insomma, li ho visti un po' appannati. Grazie, buongiorno. Ma sì, io credo oltretutto che adesso la formazione, insomma le scelte per giovedì dovranno essere un pochino diverse, perché ci sono delle condizioni oggettive per cambiare qualcosa. Perché insomma, Cassano credo che dopo quattro partite, incalando direi, perché era partito bene, molto bene con la Spagna, dopo quattro partite incalando potrebbe aver fatto il suo tempo. I quattro soli giorni di recupero potrebbero non bastare a rimetterlo in quadro al meglio della condizione. C'è un problema serio sulla destra perché Maggio è squalificato e Abate non si sa se recupera, quindi chi gioca lì? si allarga Barzagli o gioca Bonna, che però è Mancini, insomma non è semplicissimo, e quindi da questo poi dipenderà la sistemazione di altri tasselli, sempre tenendo conto delle caratteristiche avversarie. La Germania, e poi ne parliamo con più calma, anzi sto guardando l'orologio, ne parliamo direttamente dopo perché vale la pena di fare questi discorsi e di proiettarci sulla semifinale tenendo conto di che squadra è la Germania, che è, insomma, ai noi completamente diversa dalla povera Inghilterra di ieri. Il messaggio finora più divertente l'ha firmato Adolfo da Campobasso: con la sagoma di cartone di Boninsegna piantata in mezzo all'area avremmo chiuso i giochi nel primo tempo. Non Boninsegna vero, la sagoma di cartone di Boninsegna, questo lo trovo molto carino. D'altra parte scrive Claudio da Stoccolma, lui è un ascoltatore fedele, questo Claudio. Claudio scrive: il problema degli inglesi che hanno inventato il calcio, peccato che non abbiano mai imparato a giocarlo. È un po' duro, insomma, però ci può anche stare. Balotelli, e qui torno alle statistiche di Franco Piantanida, Balotelli non ha mai sbagliato un calcio di rigore in carriera in competizioni ufficiali. E questo comunque è un titolo di merito. Poi magari dei problemi di ritardo sia davanti alla porta, perché ieri sera quando si è rifatto, non come con la Spagna, ma insomma si è fatto rimontare la Terry su quel lancio fantastico di Pirlo, e sinceramente di meglio poteva fare. Un altro ritardo l'ha accusato all'antidoping, tant'è vero che la squadra già in aeroporto, già a bordo, ha dovuto aspettarlo per più di un'ora perché c'erano problemi. Evidentemente, sicché poi a Cracovia la nazionale è arrivata che era alle 4 di mattina suonate. Hermes ha chiamato da Bologna, buongiorno. Pronto, buongiorno Garanzini. Volevo fargli complimenti anche se non li vuole, però vabbè. Volevo chiedere una cosa: ma com'è possibile vedere nell'albo d'oro del pallone d'oro, cioè con tutto il rispetto, dei Summer e dei Cannavaro, e non vedere degli Iniesta e dei Pirlo? Beh, dipende dagli anni, dipende dalle stagioni. Non è che si danno. Non è che adesso uno dice: vabbè, cancelliamo Summer e mettiamo Pirlo. Nel 96, o che anno era, mi pare. Ammazza, ci ho beccato a memoria, mi fa segno di là dal vetro Franco Piantanide. Quell'anno è stato valutato il miglior calciatore europeo Summer. E basta, non è che adesso possiamo dire: vabbè, 96 lo azzeriamo e lo diamo a Pirlo, a Iniesta. E in questi anni l'ha vinto un certo Messi, che così a prima vista mi sembra un giocatore discreto. Sandro, Roma, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Allora, intanto chiedere se una domanda di servizio, se ci sono delle novità su come procederà la mostra dedicata a Rocco, se ci sono, per esempio, se c'è la possibilità di vederla in un'altra città oppure... Ma Sandro, adesso questo mi mette leggermente in imbarazzo, però insomma, a Trieste è prevista fino al 31 di luglio, e l'hanno già visitata in molti, io mi auguro che saranno ancora più numerosi quelli che la andranno a vedere. Il comune di Trieste sta pensando di prolungarla anche per agosto e settembre, e c'è, comincia a esserci qualche segnale di fumo da parte di altrove, e quindi io ho fiducia. Grazie di questo, e adesso mi dica. Poi volevo chiederle, sì. Secondo me la Spagna rischia col Portogallo, perché io che sono insomma spagnofilo come lei dal punto di vista del calcio, del gioco del calcio, sì. Però sento... vedo una stanchezza e forse anche una certa soddisfazione, come se fossero già un po' contenti di ciò che hanno fatto, non hanno la fame di 2 anni fa, di 4 anni fa, e poi anche quando si abbracciano alla fine della partita non sembrano così, cioè la critica che l'allenatore aveva fatto dicendo che non si erano abbracciati alla fine della qualificazione, in effetti l'ho potuta verificare anche con la Francia, insomma sembrano, come dire, non lo so. E quindi secondo me se non ritrovano quella vena, quella forza, quella risolutezza, rischiano, ecco, tutto qua. Ma che Io andrei su due piani diversi. Allora, se parliamo di occhio, se parliamo di estetica, se parliamo di divertimento, allora due palle sabato sera, Spagna-Francia, detta così, detta sperando non, insomma, di non essere troppo. Però non mi veniva altro per rendere l'idea, cioè veramente una pizza era una noia mortale. Ma perché però? Perché loro si sentono così superiori, gli spagnoli, e magari prima o poi pagheranno dazio, come dice lei, si sentono così superiori da limitarsi a irretire gli avversari, che non vuol dire prenderli in giro, limitarsi a farli, insomma, a soffocarli prima o poi nella loro ragnatela. Così hanno fatto, hanno creato il minimo sindacale di palle gol, loro che invece sono abituati a crearne molte. La prima l'hanno sfruttata, bellissima tra l'altro, perché il cross di Jordi Alba era un gioiello, e l'incrocio di testa di Sabbia Alonso ne ho visti di peggiori, per uno che arriva da dietro che non è un grande colpitore di vocazione, e quindi sono arrivati un po' al massimo risultato col minimo sforzo. Però io li continuerei a tenere, intanto sono dei grandi giocatori. Se non tutti, quasi tutti, e poi non sottovaluterei il fatto che non prendono gol questi, perché questi sono imbattuti da, non so, 780 minuti o qualcosa del genere in manifestazioni ufficiali, e questo è una tu non da poco, no? In una manifestazione di questo genere. La Germania, per esempio, che pure è l'altra favorita, è certamente molto, ma molto più brillante della Spagna in attacco, ma in difesa è più vulnerabile, e infatti di gol ne ha già presi alcuni. Quindi tra l'attacco dei tedeschi, la difesa degli spagnoli e il loro possesso palla a centrocampo, vediamo se si inserisce. Come per esempio diceva Roberto Mancini, e come comincia a farsi strada, no? Se non altro come suggestione, se si inserisce la razionalità del Portogallo, che poi ha davanti questo fuoriclasse che adesso finalmente sembra aver trovato la forma, oppure il grande centrocampo italiano, che secondo me, con tutto rispetto per Xavi, Iniesta, Xabi Alonso eccetera, forse in questo europeo sta almeno eguagliando il centrocampo spagnolo, perché mi pare che sia per come protegge la difesa, sia per come fa circolare il pallone a metà campo e per come ispira un attacco sterile come il nostro, mi sembra che i nostri centrocampisti, ma tutti, Pirlo, De Rossi, Marchisio e ieri sera anche Montolivo, mi sembra che stiano veramente segnalandosi ad alto livello. Gianmarco, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere cosa ne pensava di questo. L'Italia sicuramente più che buona. Però vedendoli giocare non segniamo, perché ieri sera abbiamo rischiato di perdere ai rigori una partita stradominata e abbiamo due supplementari nelle gambe eccetera, e mi pare Prandelli ha puntato tutto su questo Balotelli, ogni azione si vedono tutti preoccupati e questo non reagisce, cioè mi sembra che tutto sia in funzione di questo personaggio, tutti a cercare di tenerlo buono, di dargli la pacca, non le sembra eccessiva questa scommessa di Prandelli? Mi sembra che sia poco condizionante proprio, in ogni fase della partita. Un po' sì. Però va anche detto che, per esempio, ieri sera l'ha vinta questa scommessa, nel senso che Balotelli, di cui si temeva qualche reazione nervosa, no? con questi che lo conoscono, che magari l'avrebbero provocato eccetera, invece da quel punto di vista è stato irreprensibile, a differenza di me, che ho appena detto che la Spagna è imbattuta da 780 minuti e mi sono leggermente scordato il gol di Totò di Natale. Credo che la serie sia quella con il gol di Totò in mezzo. Insomma, adesso al di là dell'errore che mi fa cospargere di cenere quei pochi capelli che restano, però rimane il fatto che quella della Spagna è una difesa forte, solida, centralmente Piqué e Ramos, i due esterni molto ben protetti, cioè in genere una squadra che gioca quel tipo di calcio non ha una difesa così strutturata, e poi la loro forza è quella di difendersi avanti, cioè non è come gli inglesi che ieri sera sono difesi ma al limite della loro area e spesso dietro, loro si difendono più su, e questo indubbiamente è... Adesso se qualcuno vuole fare gli scongiuri è autorizzato, perché le statistiche, e qui ritorno all'amico Piantanile, le statistiche dicono che tra mondiali ed europei i tedeschi non hanno mai battuto l'Italia. 4 pareggi e 3 sconfitte. E questa è chiaro che ora, fino ad ora, in questo europeo c'è stata una netta prevalenza delle cabale che continuano, nel senso che è andata così. Però c'è già stata un'eccezione, che è Spagna-Francia, perché la Spagna non ha mai battuto la Francia in una manifestazione ufficiale e invece sabato sera è accaduto. Vediamo, vediamo. Certo che con 7 precedenti a favore dell'Italia, 4 pareggi e 3 sconfitte, potrebbe farsi sentire ancora, per esempio. Francesco, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare una battuta. Vedendo l'Inghilterra di ieri sera, si è capito perché Capello ha preso una banalissima scusa per andarsene, evitando una pessima figura. Perché sì, non era banalissima la scusa, perché c'era di mezzo un problema che riguardava il razzismo, eccetera, Terry, insomma, una roba, una storiella non proprio leggerissima. Però io non credo, credo invece, ci ho anche parlato con Capello, credo che sarebbe stato ben lieto di continuare quell'avventura se non ci fosse stata questa rottura. Pietro da Abbiategrasso mi tira le orecchie e non ha torto. Dice: mi dispiace per lei che ancora non ha parlato dello stop e tiro a volo in area inglese di Nocerino. Per me è il gesto tecnico più bello della serata, proprio perché è fatto da lui. Pietro, secondo me quella è stata, lei ha ragione, è stata di gran lunga la gemma di ieri sera dal punto di vista tecnico, però ci metterei il 70% di Nocerino ma il 30% di Marchisio, perché Marchisio l'ha pescato in area, ha pescato in area il taglio di Nocerino con un pallone col contagiri, sembrava un lancio di Pirlo, e invece, se non ricordo male, era proprio di Marchisio. Dopodiché il controllo volante sinistro e poi il tiro destro di Nocerino è stata veramente la gemma della serata, sono d'accordo con lei. Adesso ho due ascoltatori, non so chi viene prima dei due, da Pescara o da Napoli. Viene prima Stefano da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. È stato un piacere, l'ascoltavo. Grazie. Senta, io ieri abbiamo fatto, per me, il mio punto di vista, abbiamo fatto una bella partita, però dico, qualcuno in nazionale ci deve pure stare per imparare un pochettino, non dico un pochettino, non tanto, perché a me mi è pure simpatico Balotelli. Quella lettera P che lui pronuncia è la seconda volta che viene pronunciata. Possibile che non c'è nessuno che gli insegni un pochettino di educazione a sto ragazzo? Guarda, no, ci stanno provando in tanti, Stefano, però il problema è riuscirci. Ieri sera non mi sembra che abbia fatto nulla di grave, anche se certamente mettersi a battibeccare nell'intervallo, poco prima dell'intervallo, con De Rossi, dopo aver sbagliato quello che ha sbagliato, e pigliarsela con De Rossi, secondo me non è stata una gran mossa, anche in prospettiva, questo a parer mio. Un passo indietro a un 25 giugno europeo di Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 giugno 1988. L'Olanda di Rinus Michels conquista il titolo continentale, primo atteso trofeo della sua storia, battendo l'Unione Sovietica per 2-0. Gli Orange passano al 32esimo con un incontenibile Ruud Gullit, che batte Dasaev con un potente colpo di testa da distanza ravvicinata. A inizio ripresa, i sovietici si fanno pericolosi con Bielanov, che centra un palo e sbaglia anche un rigore, neutralizzato da Van Breukelen. Ma la supremazia olandese resta evidente e viene suggellata da un capolavoro firmato Marco van Basten. Quel tiro al volo a incrociare, da posizione decentrata, è tuttora ricordato come uno dei gol più belli nella storia delle competizioni internazionali. Vabbè, questo è poco ma sicuro, un gol assolutamente indimenticabile. Silvio ha chiamato da Pescara, buongiorno. Salve, buona giornata. Senta, lei faceva riferimento a alcune partite della nazionale che avrebbe meritato di vincere, non ci è riuscito. In parte mi ha un po' anticipato, perché anch'io avevo pensato a quella partita con la Germania. Sì. Però io volevo tornare un po' indietro. Stato per un mani dentro l'area volontario, si è trascinato perché rinacque proprio. Rinacque miracolosamente contro l'Argentina. L'Italia del 78, che poi ha preparato quel magnifico 82. Sì. L'hanno ceduto. Però noto che ogni volta che lui... Sì, anche questa è una considerazione interessante, però dipende sempre la palla, sì, tenerla certo, però bisogna vedere dove la perdi, cioè quando la perdi bisogna vedere dove, in che situazione, se perdi una palla a metà campo, i passaggi orizzontali che sono quelli letali, no? Perché loro ti partono a quel punto a ventaglio e diventa difficile andarli a prendere. Dipende da questo. Io credo che Cassano, il Cassano di ieri sera, insomma, sia ora di sostituirlo, perlomeno per la semifinale. Poi magari passi la semifinale e ritorna buono per la finale se ritrova la condizione. Il Balotelli di ieri, boh, se ne è magnati talmente tanti che magari ha esaurito questo prezzo da pagare e giocando da seconda punta e non da prima, o comunque alternandosi con uno come Di Natale, in effetti qualche contributo comunque lo dà. Federico scrive, sì, che l'assist per Nocerino era proprio di Marchisio, come i due per il palo e il gol sbagliato da De Rossi, verissimo. Ieri sera Marchisio ha corso di... No, non è che ha corso poco, ma ha corso di meno, ma in compenso ha messo dentro tre palloni degni di Pirlo. Significa che probabilmente la vicinanza a Pirlo, a uno che i piedi li ha e Marchisio ce l'ha, ti aiuta a raffinarli, no? Perché indubbiamente adesso è una coppia strepitosa questa. Ugo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Due cose. Intanto, vabbè, il gesto di Nocerino mi ha ricordato molto il gol di Maradona, non so se si ricorda il Napoli-Milan, praticamente il gesto tecnico uguale, solo che era molto più defilato. Ecco, lo ricordo, era molto più aperto a sinistra, era molto più verso la linea di fondo. Era più difficile quello che ha fatto Maradona. Cioè, e poi, con tutto rispetto per Nocerino, quello era Maradona. Nocerino ieri sera ha fatto un colpo da grande giocatore. Maradona fece un colpo da extraterrestre, insomma. Perché se io me lo ricordo proprio bene, perché era proprio defilato, era quasi impossibile metterla nello specchio della porta, no. Però quello era Maradona. E un'altra cosa era su Balotelli, che insomma, sto ragazzo non bisogna ricordarsi che c'ha 21 anni e non gliene perdonano mai una, perché non so, se avesse fatto la partita che ha fatto Cassano ieri gliene avrebbero dette di tutti i colori, e comunque lui fa reparto da solo. E non è facile. No, non è facile, non è facile. Insomma, non è... Se non fosse per quei gol sbagliati, io condividerei in pieno quello che lui dice. Però quando ti capitano 3-4 occasioni come quelle toccate a Balotelli ieri sera, fai reparto, ti impegni, tieni impegnati gli avversari, reggi benissimo i 120 minuti o quello che vuoi, ma di professione fai però il centravanti e uno di quei palloni dentro lo devi cacciare. Prandelli è verso la conclusione della sua conferenza stampa, siamo agli Amarcord e dice: Italia-Germania 4-3 del 70 per noi ragazzi di allora è la partita e resterà per sempre la partita. Ricordo che la vidi in TV con mio padre ed è rimasta la mia più grande emozione della storia del calcio. Lorenzo ha chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Una chicca che non abbiamo ancora detto su Balotelli. Ieri sera sono rimasto nel vederlo. Lui non esulta per i suoi gol, ma quando ha segnato Diamanti, la Madonna ha esultato, segno che il cuore ce l'ha che batte sotto. Grazie Garanzini. Sì, sì, ieri sera sì, ma insomma, credo che alla fine, cioè se alla fine ieri sera, se dopo che è entrato quel calcio di rigore di Diamanti, uno fosse rimasto fermo, freddo e cosa, allora a quel punto davvero interveniva immediatamente il 118 con una bella camicina di forza, ma non per Balotelli, per chiunque fosse rimasto freddo in quella situazione. Per fortuna non è andata così, ma era inevitabile scatenarsi, è successo nelle case, è successo nelle piazze, non poteva non succedere per tutti, no? Quelli che erano lì impegnati sul campo e che comunque avevano buttato qualche stilla di sudore, direi, no? Per arrivare a quell'obiettivo. Manuel da Torino fa un'osservazione interessante, dice: mi consente di ricordare un altro italiano che sta dando prestigio allo sport agli europei di calcio, che è l'arbitro Rizzoli. Peccato che non sia previsto un premio per il miglior team arbitrale a fine torneo. Beh, io non so se lo prenderebbe Rizzoli o meno, però Rizzoli fino adesso tutte le sue partite le ha arbitrate molto bene. Devo dire che tutto l'europeo finora è stato diretto molto bene, perché noi ci ricordiamo una svista sola, grave, che è quel gol non visto degli ucraini, e se dopo 28 partite, no? Questo è il bilancio, beh, insomma, non c'è che da levarsi il cappello davanti alla prestazione arbitrale e al designatore Collina. Mi pare che abbiamo esaurito il tempo, quindi grazie a Matteo Comis in regia, Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.